Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di tecnologia, parliamo di politica, parliamo delle cose che interessano questo nostro mondo così un po' disordinato, un po' convulso, ma che sempre merita di essere vissuto e di essere guardato attentamente. Sono passate le feste, stiamo guardando al nuovo anno, un nuovo anno ricco anche di incognite, speriamo anche di opportunità. Ne parliamo con Antonio Pilati. Buonasera Antonio Pilati. Buonasera. Antonio Pilati ha diretto l'Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli, è stato componente dell'Antitrust, dell'Autorità delle Comunicazioni, è stato consigliere d'amministrazione della RAI e ha scritto per Guerini e Associati il libro Rivoluzione Digitale e Disordine Politico. Due temi particolarmente di attualità: la rivoluzione digitale la viviamo giorno per giorno nei nostri comportamenti, nei nostri problemi, nelle nostre capacità anche di stare al mondo. Il disordine politico lo vediamo, lo abbiamo visto lo scorso anno con la Brexit in Gran Bretagna, con le elezioni di Trump che nei prossimi giorni entrerà ufficialmente alla Casa Bianca, lo abbiamo visto con le vicende italiane del referendum. Ecco, che connessioni ci sono, Antonio Pilati, tra la rivoluzione digitale e il disordine politico? La rivoluzione digitale è un grande fattore di trasformazione che ha modificato negli ultimi 25 anni, diciamo, sia la vita quotidiana delle persone. Pensate a tutte le cose che può fare un cellulare, che è ormai diventato un computer molto potente, e anche la vita delle imprese, la vita delle organizzazioni, il modo di condurre gli affari. È stato un vento di cambiamento enorme che ha sospinto, per esempio, l'espansione della finanza a un livello di importanza e di potere inimmaginabile 30 anni fa, che ha trainato l'espansione mondiale dei mercati, che ha favorito l'ascesa di economie enormi per dimensioni e popolazione come quella cinese o quella indiana. Tutto questo ha mutato il quadro sia dei nostri comportamenti sia della vita delle organizzazioni e ha creato in questo modo un quadro molto diverso per il sistema politico, le relazioni internazionali e i rapporti fra gli stati. A questo vento di cambiamento la politica, soprattutto in Occidente, ha fatto fatica a dare risposte, ha fatto fatica a reagire, è rimasta spesso superata dagli eventi e ciò ha portato al disordine che vediamo in maniera sempre più evidente negli ultimi anni. Ecco, un disordine che è molto legato alla crescita delle proteste, alla crescita dell'insoddisfazione determinata anche da una crisi economica che è iniziata nel 2008 e di cui da questa parte dell'Atlantico, forse in America è già finita, stanno già guardando in avanti, da questa parte dell'Atlantico stiamo ancora vivendo questa crisi. Ecco, questa crisi economica in fondo è alla base anche dell'insoddisfazione, però si è molto parlato anche di una politica fatta con il web, fatta con la connessione, fatta attraverso dei nuovi sistemi. Ma non è forse tanto questo quello che ha cambiato il modo di essere della politica, il modo di fare politica da parte dei politici? Antonio Pilati. Ma io distinguerei due piani. C'è un piano della rivoluzione economica che ha visto l'ascesa rapidissima delle economie asiatiche, per intenderci. Questa ascesa rapidissima ha logorato un po' l'economia dei paesi occidentali, portando fuori dal loro perimetro, dai loro stati, molte attività, riducendo l'occupazione e creando seri problemi. La globalizzazione è stata un grande fattore di trasformazione, si è sviluppata in tempi rapidissimi e mentre ha consentito a India e Cina di portare fuori dalla miseria milioni e milioni di persone, in Occidente c'è stato un prezzo forte da pagare. Questa crisi economica si è tradotto in una crescente disperazione delle classi medie e ha favorito l'ondata di rigetto che abbiamo visto in molti paesi, dagli Stati Uniti con la vittoria di Trump ai paesi del Mediterraneo con l'ascesa di movimenti radicali. Questo è un versante della questione. L'altro versante della questione, io credo, sia il fatto che non ci sono più di quei corpi intermedi che fino a ieri intermediavano la politica. Perdono peso i sindacati, perdono peso le associazioni, perdono peso tutti quei luoghi di aggregazione che fino a ieri consentivano di mediare e distribuire il consenso. E cresce invece il potere del web, il potere dell'interazione diretta. Però se si sommano i due fattori, cioè una crisi forte dello sviluppo economico e una crisi di riferimenti, perché nel web mancano le figure forti che possano dare una visione del futuro, si vede quello spappolamento, quel disordine che è un po' la cifra dei nostri giorni in campo politico. Certo, è una problematica che emerge un po' in tutto il libro, ma che poi viene in pratica riassunta nel capitolo finale, in cui si parla di un circuito interrotto tra tecnologia e sviluppo, una tecnologia che nel passato è sempre stata portatrice appunto di benessere, di opportunità, di capacità di creare nuove cose, nuovi lavori. Ecco, in questa fase sembra apparire come una tecnologia che distrugge il lavoro, che crea appunto angoscia sotto certe prospettive per l'incapacità di inserirsi in questo nuovo mondo che offre sì grandi opportunità ma anche delle problematiche molto rilevanti. La politica sembra sempre in ritardo, così come sembra sempre in ritardo il diritto di regolare, la regolazione di questi eventi. Un capitolo del libro è dedicato per esempio allo scandalo della Volkswagen e all'ideologia delle regole che vengono facilmente aggirate fino a un certo punto dalle nuove capacità appunto tecnologiche. Ecco, ma in questo complessivo ritardo, il ritardo della politica e il disagio sociale, quale può essere il filo d'Arianna per uscirne fuori, Antonio Pilati? Ma io credo che un fattore molto importante siano i tempi, la scansione temporale. La prima rivoluzione industriale, quella del Settecento, la seconda rivoluzione industriale, quella della fine dell'Ottocento, si sono scaglionate su tempi lunghi, hanno diffuso i loro effetti su un arco di 50-60 anni per mostrare pienamente, per esplicare pienamente le loro conseguenze. Da noi i tempi oggi sono estremamente ristretti. La rivoluzione digitale si è giocata in 20 anni, la globalizzazione praticamente nello stesso periodo. È evidente che la concentrazione temporale rende tutto più drammatico, meno spazio per gestire i fenomeni, per creare contrappesi, per creare elementi di equilibrio. La politica dovrebbe fare un po' questo lavoro, cioè cercare di creare dei bilanciamenti, dei contrappesi alla forza irrompente della tecnologia, che in un sacco di campi, si pensi a tutti gli effetti di disintermediazione, dalle banche al turismo, quali ricadute hanno sul lavoro. Ecco, mi sembra che il dramma della politica nel mondo occidentale, nel mondo orientale è tutta un'altra cosa, nel mondo occidentale sia proprio quello di non aver compreso fino in fondo la portata dirompente della rivoluzione tecnologica e di non essere riuscita ad approntare quel sistema di contrappesi che poteva essere in grado di attutire i colpi, le trasformazioni della rivoluzione tecnologica. Ecco, in questo l'Europa è in fondo un anello debole della realtà, un anello debole in un'America che sembra andare verso un maggiore isolazionismo, un protezionismo, una difesa dei propri interessi, una Cina che sta crescendo continuamente nonostante abbia rallentato la sua crescita, ma che continua ad essere ormai protagonista del commercio internazionale. Ecco, in questo c'è un capitolo nel suo libro in cui si parla di l'ascesa delle antiche potenze imperiali, Giappone, Turchia e Russia, nazioni di lunga storia imperiale che potrebbero tornare ad essere protagoniste. Ecco, in questa logica, in questa dimensione globale, l'Europa rischia veramente di essere un vaso di coccio. Ma lì c'è una scommessa utopica che era quella di progressivamente attenuare il peso degli stati nazionali e di far emergere una sorta di governo continentale attraverso regole ferree, soprattutto in campo economico, ecco, questa scommessa si è trovata controcorrente rispetto ai tempi. Diciamo che i tempi hanno messo in campo problemi che quell'idea utopica non era in grado di affrontare, non era in grado di risolvere. La globalizzazione paradossalmente ha ridato forza agli stati nazionali, diciamo strutture forti, coese e integrate con le loro popolazioni che da secoli sono abituate a vedere nello Stato nazionale il loro orizzonte di riferimento, sono riusciti ad affrontare i problemi della globalizzazione probabilmente con più forza e con più efficacia di un continente come l'Europa, dove gli stati nazionali perdevano sovranità, perdevano forza, perdevano potere e al contempo c'erano delle strutture sovranazionali, degli organismi sovranazionali che facevano fatica a conquistare il consenso dei cittadini e facevano fatica a elaborare politiche che andassero bene da Helsinki a Lisbona. Ecco, grazie Antonio Pirati, grazie anche di questo punto affresco sulla realtà complessa, con la realtà complessa europea. Facciamo gli auguri di buon anno anche all'Europa, di sfide quest'anno ne deve affrontare e superare molte. Speriamo che appunto siano sfide affrontate nell'ottica della costruzione, dell'ottica della solidarietà, dell'ottica della capacità di rispondere appunto anche alla grande rivoluzione digitale, rivoluzione tecnologica che stiamo affrontando. Grazie Antonio Pirati, abbiamo parlato con lui del libro Rivoluzione digitale, disordine politico, il mondo che verrà, edito da Guerini e Associati, sono 176 pagine per 16,50 euro. Grazie, ancora buon anno a tutti, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.